Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. In questa puntata parleremo di ciclisti e di toreri, di lotte per chiudere gli zoo e di maiali. Ma non vi faremo mancare, come sempre, buona musica e ottima cucina. Restate in ascolto. E restiamo animali. Giuseppe, ho sentito dire che vorresti unirti alla biciclettata di protesta che sta per partire per dire basta alla tauromachia. Intanto il termine è improprio, perché non si tratta di un combattimento alla pari, visto il trattamento violento che subisce il toro prima di entrare nell'arena. È vero, in effetti il comunicato della Leal parla più appropriatamente di corrida. La notizia è che anche quest'anno, per la quarta volta, Paolo Barbon partirà per la Bike for Animals, una corsa, un viaggio in bici di protesta e di testimonianza che partirà da Torino e che in questa edizione si fermerà ad Alès, in Francia, per dire no alla corrida, uno spettacolo crudele e anacronistico che, diversamente da quel che si pensa, è diffuso anche nella civile Francia. Infatti, stavolta i chilometri saranno 408, quindi forse Camilla ce la puoi fare anche tu se ti decidi a togliere le due rotelline laterali della tua bici. Per saperne di più abbiamo al telefono Paolo Barbon. Si tratta sempre della solita iniziativa di sensibilizzazione nei confronti della corrida. Questa volta il tragitto sarà decisamente più breve, perché sarà in un'unica tappa da Torino ad Alès, in Francia, a 400 circa chilometri di distanza. Per prendere parte, appunto, sabato nel primo pomeriggio alla manifestazione organizzata dal Crack Europe, l'associazione francese tra le più importanti che lottano contro la corrida e per l'affermazione dei diritti degli animali. Con la stessa formula di sensibilizzazione, difatti gli attivisti oramai amici francesi hanno già organizzato e hanno diffuso il messaggio dell'iniziativa. Io mi aspetto molta affluenza, arriveranno parecchie persone anche dall'estero, probabilmente dalla Spagna, perché appunto i recenti fatti di Madrid, le 80.000 persone in piazza contro la corrida, erano note a tutti e probabilmente molti di quegli attivisti potrebbero essere presenti ad Alès quest'anno. Il declino c'è da parecchio tempo, adesso però con il nuovo presidente pare che non sia un granché propenso al rispetto degli animali non umani, quindi anche la corrida si teme che possa ritornare magari un pochettino più in auge, anche se comunque sia la maggior parte dei francesi non la vuole. L'anno scorso, a parte del Basta Corrida del Tour, è passato effettivamente anche da Aless, perché ad Aless ci siamo fermati, abbiamo fatto una bellissima manifestazione, presenti molti attivisti francesi sulla piazza del comune. Quest'anno gli attivisti francesi hanno deciso di fare due manifestazioni, nel senso che ci saranno in una zona della città degli attivisti che consegneranno volantini, fermeranno le auto, parleranno alle persone, e in un'altra zona della città un posto fisso, quindi non una manifestazione itinerante come quella del 2013 che si era svolta a suo tempo in due giorni, sabato e domenica, con un'affluenza incredibile, più di 5.000 persone sia il sabato che la domenica. Invece quest'anno appunto sarà un posto fisso sempre nei pressi dell'arena, purtroppo distanti parecchie centinaia di metri dall'arena, perché così vuole la legge francese, non si può manifestare troppo vicino, e anche per evitare magari scontri fisici con i taurini. Una forza vegan, non solo la mia, perché a 300 km da Torino si unirà un attivista francese conosciuto l'anno scorso durante il tour contro la corrida, Daniel, vegano anche lui, che farà 100 km all'incirca assieme a me. Si unirà Philippe, un altro attivista anche lui per i diritti degli animali e contro la corrida, francese, vegano anche lui in moto ci farà da staffetta, e a una trentina di chilometri circa da Alès si unirà a noi un altro attivista ancora francese, Sergio, conosciuto anche lui l'anno scorso ad Alès durante il tour. E quindi l'arrivo quest'anno non sarà solo più per me, ma saremo in quattro, saremo quattro vegani, quattro anticorrida, quattro per i diritti degli animali. Come sempre la pagina Bike4Animal Facebook, oppure il mio profilo, all'interno dei quali si può trovare l'evento della pedalata Torino Aless in bicicletta contro la corrida. Black hole sun, won't you come? Wash me. Apprendiamo con sgomento che l'addestramento medico-militare negli Stati Uniti viene svolto grazie all'utilizzo di animali vivi, principalmente maiali, che vengono colpiti da proiettili, pugnalati e smembrati affinché i medici possano esercitarsi con suture, amputazioni, medicazioni e operazioni chirurgiche. Lo abbiamo appreso in quanto finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di denunciare queste pratiche e di invocare il loro superamento. Si tratta del comandante della Guardia Costiera americana, l'ammiraglio Paul Zukunft, che ha definito l'uso di animali per addestramento medico-militare orripilante. L'agenzia governativa smetterà per sempre i terribili addestramenti con animali vivi, anche grazie alle pressioni di 3 deputati e un senatore. Ma questa doveva essere una bella notizia. Boh. Le coste americane veniamo alla italianissima Cilavegna in provincia di Pavia, dove da anni si svolge il palio dei maiali, per inscenare il quale i cuccioli di maiale vengono estratti con la forza da piccole gabbie e costretti a correre per vincere. Quest'anno un gruppetto di animalisti ha fatto irruzione per guastare la festa, occupando lo spazio dedicato alla corsa, subendo dal pubblico insulti, urla e lancio di oggetti e di sabbia. Alcuni contradaioli hanno anche spintonato i manifestanti e strappato loro i cartelli di protesta, ma gli attivisti non si sono dati per vinti, hanno continuato irremovibili la loro protesta fino a contrattare un intervento al megafono in cui hanno spiegato le ragioni della loro invasione pacifica. Il palio, sostenuto da Proloco, parrocchia e comune, nasce per far divertire un pubblico umano, costringendo altri esseri viventi a dare spettacolo. Cuccioli di maiale ridicolizzati, ridotti a fenomeni da baraccone, privati di ogni dignità. Uno spettacolo penoso a cui assistono purtroppo tanti giovani, indifferenti al terrore e allo smarrimento di quelle deboli vittime sopraffatte con la forza e con la coercizione. Uno spettacolo diseducativo e violento che insegna ai bambini che è giusto rispondere alla paura, al disagio e alla pena di un animale con risate sguaiate invece di provare empatia, vergogna e pietà. Spettacoli diseducativi sono sicuramente quelli offerti dagli zoo e dai delfinari. Per chiudere tutti questi luoghi di sofferenza e prigionia, sabato 27 maggio a Torino si terrà, o si è tenuta per chi ci ascolterà a partire da domenica, una manifestazione di protesta nazionale. La giunta comunale di Torino, guidata da Chiara Appendino, è intenzionata a riaprire uno zoo in città, nel parco storico Michelotti. Un'area di grande pregio naturalistico situata sulle sponde del Po che da 30 anni attende di essere riaperta ai cittadini e che invece rischia di essere privatizzata e consegnata a una società che gestisce zoo. È un duro colpo per tutto il movimento animalista e ambientalista e per chiunque si batta a tutela degli spazi pubblici e verdi contro privatizzazioni e cementificazioni. Hanno aderito alla manifestazione EMPA, LAC, LAV, LEAL, Legambiente, LIDA, OIPA, Pronatura, SOS Gaia, in collaborazione con Animal Renegades e con il sostegno di Lega Italiana Difesa Animale e Ambiente e Vegan OK. C'è una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore è bellissima. C'è un grande salto in fondo al cuore. Prima deserto, adesso un'oasi. Via i cancelli, per favore, che non mi servono più. Via le lame dal mio cuore. via le cose che lo umiliano. Carro che non vuol cadere nella stupidità. Cieli vuoti. Si intitolava così un famoso reportage di Jonathan Franzen sul bracconaggio a danno degli uccelli e sulla caccia in Italia, Cipro e Malta, che fu pubblicato sul settimanale internazionale nel 2011. Il titolo di quel reportage suona come una sinistra profezia, visto che la nuova edizione della ricerca di BirdLife International, un network di cui fa parte anche la LIPU, denuncia il pessimo stato di conservazione della fauna alata in 50 paesi europei. Parlerà di questo e di altro ancora la rubrica Tigri di carta, a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista. La notizia della settimana è decisamente la nuova discesa in campo di Silvio Berlusconi, stavolta in difesa degli animali. L'ex presidente del Consiglio ha accompagnato Michela Vittoria Brambilla, sua ex ministra, nella presentazione di una nuova lista destinata a presentarsi probabilmente alle prossime elezioni. Si chiama Movimento Animalista e i quotidiani hanno fatto fatica ad inquadrare questa novità, questa notizia, nelle loro pagine di politica. La stampa, nell'imbarazzo, ha finito per pubblicare esclusivamente una fotografia di Berlusconi, Brambilla e altre persone, compreso un cane, durante la presentazione di Movimento Animalista, con un'unica didascalia, e Silvio lancia: la lista animalista può valere il 20%, ma nessun articolo, nessun commento. La Repubblica, nel giorno della presentazione, ha fatto qualcosa in più, ma sempre un piccolo articolo, in una pagina dedicata a Renzi e alla questione delle intercettazioni, tuttavia con una intervista alla Brambilla titolata così: con Silvio e il mio partito porterò gli animali nel palazzo. Il Fatto Quotidiano, nemico giurato di Silvio Berlusconi quando era al governo, si limita a un trafiletto titolata così: la nuova idea di B ora fonda il movimento animalista di Dudù dopo gli agnelli di Pasqua, un articolo sostanzialmente irridente e minimizzante. Tutt'altra scelta è quella invece che compie lo stesso giorno il Corriere della Sera, che prende sul serio la questione, dedica ad essa un'intera pagina con un articolo principale intitolato «Ecco il movimento animalista, sarà una forza d'urto in Parlamento, la scommessa di Berlusconi con Brambilla». Nell'articolo di cronaca si legge questo: fra l'altro, il leader di Forza Italia, che è socio fondatore della nuova forza politica, parla della sensibilità della sua famiglia verso gli animali. Qui in sala, dice, c'è anche mia nipote Nicole, che ha messo in piedi una struttura per aiutare i cavalli. Affronta il tema degli allevamenti intensivi, ho visto dei filmati, sono inorridito, e motiva i supporter della nuova sigla. Vista l'attenzione che c'è, potreste arrivare al 20%. Un delegato dall'Abruzzo, continua l'articolo, Walter Caporale, presidente degli animalisti italiani, dal palco gli dice: sono stato di sinistra, ti ho combattuto per 20 anni, scusami. Berlusconi sorride, si alza e lo abbraccia. Ad accompagnare questo articolo di cronaca un'intervista con la Brambilla, la presidente del partito è una forza trasversale, arrivano anche da sinistra, questi sono temi reali nella vita delle persone. L'intervistatore le chiede: c'era bisogno di fare un partito? Sì, con un programma e coordinatori su tutto il territorio, c'è moltissimo da fare, con il governo Renzi si sono fatti tanti passi indietro. I giornali hanno però capito che evidentemente Brambilla e Berlusconi stanno facendo sul serio, tant'è che lunedì, il giorno dopo, Repubblica torna sul tema dedicandogli una pagina. Il titolo principale è «La scissione animalista, il nuovo partito spacca a destra come a sinistra. Gli ambientalisti ci siamo fatti sfilare, un tema nostro». Nell'articolo si riportano fra l'altro le opinioni di alcuni personaggi che si muovono in ambito ambientalista e animalista, ad esempio Margherita D'Amico, che dice: Sui voti degli animalisti Matteo Renzi ci ha letteralmente sputato sopra, preferendo il consenso della lobby dei cacciatori. C'è la voce critica di Michele Visone, presidente di Assocanili, e che dice: il movimento di Brambilla farà danni al vero volontariato, che ha tutt'altra identità e non usa gli animali come strumento politico di propaganda, facendosi fotografare con cuccioli in grembo. C'è invece poi il parere positivo di Carla Rocchi, presidente attuale dell'ENPA, per lungo tempo parlamentare dei Verdi, che dice: sono totalmente favorevole al movimento di Brambilla. Finalmente si apre uno spazio nelle istituzioni per gli animali, vista la completa inerzia dei partiti da 20 anni a questa parte. Accompagnano l'articolo 2 interviste, una con Marina Ripa di Meana, che dice: sono pronta a votarlo meglio dei grillini. Spiega Ripa di Meana: voterei il movimento animalista e come me lo faranno di sicuro tutti quelli che sono schifati dalla politica e dai partiti, che nulla hanno fatto in questi anni in difesa degli animali. A una domanda: ma lei mangia carne? Lei dice: sì, non sono vegetariana. Per la mia salute non posso privarmi di carne, pesce e uova. Non sono un estremista. Ad esempio, i vegani proprio non li tollero. L'altra intervista è allo scrittore Antonio Pennacchi, autore a suo tempo di un libro piuttosto noto, Il fascio comunista. Esordisce così Pennacchi: un partito degli animali in sé per sé non serve a un cazzo. Io sono classe operaia e voto per il PD. E poi però avverte: il tema è molto più serio di quel che potrebbe sembrare. Lei è animalista? Gli chiedono. Guardi, io non sono nemmeno vegetariano. Il mio piatto preferito sono le salsicce con i fagioli in umido. Però le dico che, se c'è una scintilla divina in me e in lei, non può non esserci anche negli animali. Ho avuto cani e gatti e l'ho percepito. Su questo non ci piove. La questione va inquadrata in altro modo e sarebbe il tema del rapporto fra l'uomo e gli animali, che va collocato nell'arco generale della storia e correlato alla continua avanzata del progresso umano. E filosoficamente parlando, gli chiedono ancora, qual è il problema centrale della civilizzazione umana? Pennacchi risponde: il superamento definitivo della violenza, sia sugli altri uomini che sulle altre forme di vita. E anche da queste risposte di Pennacchi si evince come Silvio Berlusconi e Michela Brambilla stiano cogliendo, a fini di marketing politico probabilmente per il loro tornaconto elettorale, una sensibilità crescente nella società, una sensibilità che sta facendo breccia in molte persone, ma che ancora il mondo politico e culturale stenta a mettere a fuoco. Chiudiamo citando due questioni riguardanti la difficile condizione degli animali in questo preciso momento, a partire dall'ultimo rapporto Birds in Europe, Uccelli in Europa, realizzato dagli esperti di BirdLife International, un organismo che raggruppa 48 organizzazioni e che è stato presentato all'Assemblea Nazionale della Lipu a Parma. Dedica a questo argomento un'intera pagina il quotidiano nazionale, con il titolo «Il volo spezzato degli uccelli, a rischio estinzione 68 specie». Il rapporto Birds in Europe dice: in 10 anni aumento del 70% dei volatili minacciati. E nell'articolo si legge questo: oggi gli uccelli sono forse gli animali più selvatici e più autenticamente liberi che abbiamo, più dei pochi lupi e dei pochi orsi rimasti in montagna. Ma nemmeno loro possono sfuggire alla morsa dello sviluppo di una società che progetta il proprio futuro trasformando gli habitat senza considerare gli abitanti non umani. Infine La Stampa, che il 22 maggio dedica una pagina al tema della biodiversità. Il titolo è «Le aree protette non bastano, animali e piante a rischio». Oggi è la giornata mondiale della biodiversità, Lega Ambiente. Bisogna spendere di più e informare. È una pagina corredata di grafici e fotografie e vi si legge, fra l'altro: e se è vero, come è vero, che l'incontrollata espansione sul pianeta dell'Homo sapiens sta creando le premesse di una nuova estinzione di massa, bisogna comprendere che sul piatto della bilancia c'è semplicemente la possibilità di sopravvivere, come specie, ai ritmi del cosiddetto progresso. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. the girl I am in that merry green land I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Saor, che come dice il nome rappresenta il sapore della cucina tradizionale veneta, un piatto che unisce agro e dolce, nato come metodo di conservazione, ottimo come originale e gustosissimo antipasto. Gli ingredienti per 4 persone per le melanzane in saor sono 2 melanzane tonde, 3 cipolle bianche, dell'olio extravergine di oliva, un cucchiaino di zucchero di canna, 30 g di uvetta, 10 g di pinoli, alloro, mezza tazzina di aceto di mele, sale e pepe. Tagliate le melanzane a fette abbastanza spesse e lasciatele spurgare con del sale grosso in un colapasta per almeno 30 minuti. Dopodiché sciacquate, fate asciugare e fatele grigliare. Sbucciate le cipolle e tagliatele a lamelle sottili. Mettetele sul fuoco in una padella capiente assieme ad un bicchiere d'acqua. Fate evaporare l'acqua e aggiungete 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fate rosolare qualche minuto e aggiungete lo zucchero di canna e l'aceto di mele. Quando questo sarà sfumato, aggiungete i pinoli e l'uvetta, che avrete precedentemente lasciato in ammollo in acqua calda e successivamente scolato. Fate cuocere ancora qualche minuto e togliete dal fuoco. In un contenitore di vetro o porcellana, alternate degli strati di melanzane grigliate con uno di cipolle stufate e qualche foglia di alloro. Continuate fino ad esaurire gli ingredienti, lasciando le cipolle come ultimo strato. Lasciate riposare il tutto coperto in frigorifero per almeno un giorno. Servite guarnendo con qualche chicco di uvetta e pinolo tostato. Siamo in chiusura. Ricordiamo tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata e che sono state: Paolo Barbon, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianni Ferrarotti, il torero paulista Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, detta anche Carmencita. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.